Vaffanculo. Non ne posso più. Mi avevano detto che essere quello di mezzo avrebbe implicato complicazioni, noie. Ma così è troppo. Io non sono così. Sono un tipo gentile, io ve lo assicuro. Ma la cultura, la semiotica, la convenzione mi hanno voluto regalare questo ruolo infausto. Volgare, permaloso, aggressivo, antipatico. E sempre pronto a scattare sull'attenti per mandare a quel paese il prossimo. Ma vaffanculo! Ho quattro fratelli e nessuno di loro patisce le mie stesse pene. Quei vigliacchi sono stati baciati dalla fortuna e come tutti i fortunati sono insopportabili con noi poveri cristi. Il maggiore è il più presuntuoso. A quasi ogni domanda gli venga posta, si è convinto col suo essere opponibile di aver avuto un'importanza rilevante addirittura nell'evoluzione umana. Spesso guarda me e gli altri con aria altezzosa e ci dice: se per voi saremo ancora della realizzazione di tutto ciò che vedete attorno a voi. Un fanatico, presuntuoso, insensibile, uno di quei cuori di pietra capace di scegliere se far vivere o morire un poveraccio con la stessa semplicità con cui si guarda il sole o il suolo, capace di accettare passaggi dagli sconosciuti, capace di sostenere che vada sempre tutto bene. Ma vaffanculo. Il secondo è il più pignolo. A quasi ogni domanda gli venga posta, lui risponde di no. Con un fastidioso movimento oscillatorio dell'intero corpo. È un antipatico raro. Eppure la gente lo considera un vero e proprio punto di riferimento, eh? E spesso si ferma a guardare la via da lui indicata, mentre i più cretini, beh, guardano lui. Beh, crede di essere il più impegnato fra noi, infilandosi in tutti i buchi davvero porco qual è. Come narici, orecchie o parti del mondo che non sto adesso ad elencare. Tutto è ben accetto. Ma il suo impegno più grande è passare la sua giornata a dare capocciate a citofoni, calcolatrici, interruttori. Quello che è venuto dopo di me è in assoluto l'essere più noioso sulla faccia della terra. Crede di aver trovato nel sacro vincolo del matrimonio tutte le risposte alle domande che l'universo ci pone. Allora spesso si vede andare in giro con una sorta di cintura di castità d'oro, identica a quella indossata dalla tipa che frequenta. Una deficiente. Con la faccia interamente dipinta di rosso. Si porta sempre dietro le sue quattro sorelle, anche loro con la faccia dipinta, cercando disperatamente di attirare l'attenzione mia e dei miei consanguinei. E allora ci si intreccia, ci si sfiora, ci si tocca. Ma è lui l'unico con la pellicina talmente bacata da decidere di compiere il grande passo e indossare il cinturone del campione dei pesi casti. Ma vaffanculo. Per ultimo c'è il piccoletto, da noi ribattezzato Colombino. Il portatore di pace che passa tutto il suo tempo a sedare conflitti. Il nane rottolo riscuote un sacco di successo fra le signore di una certa età. Oh, ma quanto è piccino, ma quanto è carino. Guardate, guardate come se ne sta dritto dritto mentre sorseggia la sua bevanda. Un vero campioncino di bon ton. Poi sarei io il gretto, ma vaffanculo. Sì, ma nel mezzo ci sono io. Il più alto, il più arrabbiato. Ma sicuramente il più onesto dei cinque. considerato un cafoncello volgare da mamma e papà, che quando vedono esibirmi senza la presenza dei miei fratelli, spesso per mano dei loro stessi figli, immediatamente si alterano e addirittura minacciano di portarmi via dalla mia casa e dalla mia famiglia mediante un colpo di forbici. Ma vaffanculo. E comunque, anche se ne ho parlato un po' male, avrei paura ad abbandonarli, perché insieme facciamo un sacco di cose. Frequentiamo un corso di piano, unendoci, oscillando in alto e in basso, facciamo nuove conoscenze con altre famiglie. Famiglie che ci capita di ritrovare a salutare alla stazione, sempre oscillando, ma stavolta a destra e a sinistra, e a volte, almeno i più romantici di noi, stringendo un lenzuolo in segno d'addio. Ci capita anche di fare a botte tutti insieme, rannicchiandoci e usando il dorso per colpire gli avversari. A volte preferiamo vincere facile e lottare 5 contro 1, anche se dopo il conflitto è sempre l'altro a risultare più soddisfatto. Insomma, sì, ci divertiamo. Ma preso singolarmente sono quello con la reputazione peggiore. E questa cosa non mi va tanto giù. Io vorrei dimostrarvelo, ma finirei solo con l'essere offensivo. La mia sorte è scritta. E allora non mi resta che farmi forza e affrontare giorno dopo giorno con la mia solita unghia tosta questa beffarda ingrata giostra chiamata dita. Ma vaffanculo, sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo.